L'insegnamento del regno dei cieli. Parte 1. File audio 5. Capitolo Le cinque fasi del liberatore. Continuiamo il paragrafo 5. Quest'aspetto di Yesod, è così importante che è diventato per tutti gli studenti la realtà di ogni giorno. Questo è il luogo più importante e intimo del lavoro interiore, il patto che abbiamo fatto con il Creatore. Lo Zohar ci dice: solo da questo posto si può vedere il Creatore. Perché questo posto? Prova a trovare la risposta in te. Durante la correzione di Yesod si attrae lo splendore della luce Chokmah. Nel linguaggio santo, Chokmah è Reia. Reia è vedere e si riferisce a Yeshua. Tramite Ateret Yesod, la luce, Or Hozer, ascende fino a Chokmah. Allora puoi vedere il Creatore, o in altre parole, la luce, Or Hozer, copre Chokmah della luce diretta, Or Yashar. La luce, Or Hozer, raggiunge Chokmah della luce diretta, perciò si può vedere il Creatore. Nella sua ingenuità, il mondo pensa che il processo di liberazione è così alto, si hanno diverse strane idee. Ricordo ancora quando parlai di questo tema un paio d'anni fa, durante le lezioni sullo Zohar. E alcuni studenti iniziarono a sorridere. Prima di allora non avevano provato questo posto mentre imparavano. Poi, improvvisamente, questo luogo era ancora dormiente. Vale a dire, non c'era alcuna correzione, perciò fu questo posto che iniziò a sorridere a causa dell'associazione materiale con il posto di Yesod. Naturalmente, dopo un po' la smisero e ora sanno come funziona. Perciò ho una richiesta molto sincera per voi. Non vergognatevi di questo posto. Fu Yeshua stesso a dirci di non vergognarcene. La forza di Yeshua è connessa con ogni Yesod tramite Yesod. Man si eleva fino a Yeshua e questo accade all'inizio di ogni correzione, di ogni preghiera di guarigione spirituale. Quando un cieco implora Yeshua, figlio di Davide, aiutami, che significa? Man, la richiesta d'aiuto, può elevarsi fino a Keter solo quando si ha fede, l'Emala Mihadat, oltre la ragione. Ogni volta che una persona chiese a Yeshua se potesse guarirlo, la forza di Yeshua gli rispose che avrebbe potuto farlo solo se quella persona avesse avuto fede. Senza fede, emunah in ebreo, non c'è aiuto. Emunah, fede oltre la ragione, è lo strumento incluso nel sistema del controllo dell'alto. Per portarti in conformità con le qualità di un livello superiore, hai bisogno di questo strumento. Fa che sia tu a implorare aiuto a Yeshua. E grazie a questo portare il tuo Yesoda al Kli Keter. Quando questo accade, avviene un miracolo. Non appena Yeshua tocca i tuoi occhi, grazie all'equivalenza delle proprietà, immediatamente riesci a vedere. Ottieni lo splendore di Chochmah. Che cosa significa quando un sordo implora Yeshua aiuto? Aiuto. Che cosa significa quando Yeshua tocca il tuo orecchio, il tuo binah, e puoi sentire? Questa è la ricezione della luce Neshama. C'era una città chiamata Cafarnaum. Questa è una corruzione dell'ebraico Kfar Kanu, che significa villaggio di conforto. E in questo posto Yeshua non poteva portare alcuna guarigione perché gli abitanti non avevano abbastanza fede, solo dubbi. Ecco loro chiesero: chi è quest'uomo? Dopotutto è il figlio di Miriam e del falegname Yosef. E non conosciamo i loro figli. Allora, e non conosciamo i loro figli, nel senso che sì, conosciamo loro. Allora, com'è possibile che sia così pieno di saggezza? Yeshua disse: chi si vergogna di me? Io mi vergognerò di lui quando sono con il Padre che è nei cieli. Questo significa: non lascio passare man fino al Padre perché non c'è conformità in qualità. Egli ancora si vergogna di me, perciò vuole ricevere solo per se stesso, odia l'aspetto del dare. Ma ora ritorniamo all'essenza di Yesod in connessione con le lettere del nome Yitzhak. Il Kli Yesod. Come ho detto sopra, Yesod Yitzhak è Ari. La prima lettera di Yitzhak è lo Yud di Yeshua. ovvero lo splendore di Chochmah di Yeshua. Le altre tre lettere sono il suo contributo, il suo proprio contributo, le lettere Tzadi, Chet e Kuf. E questa è la parola sorriso. Ha riportato sorriso e gioia in questo mondo. Da questo punto di Yesod. Con Yitzhak Luria Ashkenazi quattro luci arrivarono nella creazione. E questo luogo è in realtà buffo. Il mondo intero ne ride. Ci sono così tante barzellette sugli ebrei. Tutte le cosiddette leggi ebraiche parlano della purezza a riguardo della famiglia, il rituale del bagno, eccetera. Tanto sconosciuto a coloro che non hanno ricevuto l'insegnamento della liberazione, perciò la loro reazione è comprensibile. Ma Yitzhak Luria attirò lo splendore della luce Chochmah a livello dei Klil Yesod per il mondo intero e per ogni persona in particolare. Anch'io iniziai a ridere. Diventai felice. Quando toccai l'albero della vita da Yitzhak. Questa è la reazione quando si sperimenta lo splendore di Chochmah in Yesod. Gioia, felicità e sorriso. La luce arriva nel luogo dove prima vi era oscurità. Tutto questo è nel nome Yitzhak. Prendiamo le lettere Chet e Yud del nome Yitzhak e poniamole in quest'ordine Yud Chet Chai. Come già sai, Yesod si chiama anche Chai. Yud Hei, Yud Het Chai, vita. Ma non in questo ordine è scritto nelle traduzioni. Qui Yud Het, ma deve essere il contrario. Chet Yud Chai. Corregge per se stesso. Nelle tue versioni. Come già sai, Yesod si chiama anche Chai Vita. Questa è una parola. Ma possiamo crearne altre. Per esempio. Prendiamo l'ultima lettera e poniamola in fronte, poi Yud e Tzadi, Ketz. Ketz significa fine. Fine, confine. Queste due parole, Chai e Ketz, del nome Yitzhak, hanno il significato di fine vivente. La fine vivente di un parzuf. Osserva sempre le sante lettere. Solo con le sante lettere vedrai le risposte invece di lavorare con la tua testa in modo intellettuale. Atteret Yesod è la fine di ogni parzuf, o solo in questo posto la luce di correzione può arrivare durante i 6.000 anni della correzione. della creazione e della correzione. Questa è la fine vivente del Parzuf. L'intero universo è costruito su queste fondamenta. In questo stadio di correzione, solo su queste fondamenta si può costruire. Il passo successivo sarà il Martikun. A quel punto la luce, la vita arriverà pure in Malchut. Quale sarà la forza di Malchut? Questo si nasconde nel nome del Redentore Mashiach. Osserviamo le lettere di Mashiach. Prendiamo la lettera Shin, Mem, Shem. Shem, anche qui le lettere ebraiche stanno in posizione sbagliata. Shin, dopo Shin, alla sinistra, è il posto di Mem, Shem. Shem significa nome. Malchut si chiama nome. Rimangono due lettere Yud e Het, che ci danno la parola Chai. Het è dopo di Het, è il posto di Yud. Vita, come nel caso di Yesod. Mettendo queste due parole insieme, Chai e Shem, vediamo la parola Mashiach, che significa nome vivente. In altre parole, il Malchut vivente è il contenuto del nome Mashiach, il Redentore. Nel Gmar Tikun, Malchut riceve il nome Shem. La vita si riempirà di luce e allora otteniamo veramente il Malchut vivente. E chi porterà questa forza? Il nome Mashiach. La luce Yichidah riempirà Malchut. Guardiamo di nuovo il nome Mashiach. Che cosa vediamo? Prese la prima lettera delle tre fasi precedenti del liberatore. Da Mosè prese la lettera Mem, da Shimon Bar Yochai la lettera Shin, e da Yeshua la lettera Yud. Ma in Yitzhak accade qualcosa di strano. Prese la terza lettera, che è Chet. Studiando la Torah impariamo molti fatti, e uno di questi è che quando si nota che qualcosa è un'eccezione alla regola, o una regola sembra illogica, vale a dire il buon senso non la giustifica, allora bisogna prestare più profonda attenzione, perché qui sono nascosti i segreti della Torah. Qui abbiamo l'eccezione alla regola, che Malchut o Mashiach prese la terza lettera, il Chet del nome Yitzchak, e non la prima lettera Yud. Malchut riceve la forza di vita da Yesod. Sempre Yesod le dà la lettera Chet. Grazie a questa lettera Chet, Malchut diventerà il nome vivente, Chai, Shem Chai. Quando arriverà il Gmar Tikkun. Cominciamo il paragrafo 6. Il mistero di come perdonare i peccati e il male in te stesso. È possibile per un essere una scatola nera perdonare un'altra scatola nera. Pensare che questo sia possibile è solo immaginazione puerile. Naturalmente può essere divertente, ma non aiuta. Vedilo in questo modo. Un essere umano è il desiderio di ricezione per se stesso. Questo desiderio di ricezione per se stesso può essere materiale, conforto materiale, piacere materiale. Mangiare, bere, sesso, ricchezza, potere e scienza devono essere visti strettamente come conforto e piacere materiale, sebbene tu non sia d'accordo. Per esempio, la scienza è materia molto fine. Tuttavia appartiene alla nostra placenta dell'universo. Anche le leggi di natura, come vediamo con Einstein, sono materia. Quando qualcuno si occupa di leggi della natura, per esempio la teoria della relatività, è tutto all'interno del nostro mondo. Ma ci sono altri desideri, desideri spirituali, che si vogliono ricevere per se stessi. Un essere umano può puntare alle cose materiali tramite il suo desiderio di ricevere per se stesso, ma anche fare cose che pacificano la propria coscienza. Per esempio, perdonare qualcun altro. Sappi che qualunque forma si scelga per perdonare qualcuno in questo mondo è solo un modo di sentirsi bene con la propria coscienza sempre. La tua coscienza si sente in colpa e questa non è una sensazione piacevole, per cui piuttosto che restare in questo stato perdoni qualcuno. È il Sitra Achra. Entro di te che bisbiglia nelle tue orecchie, perdonalo e ti sentirai meglio. E a ogni persona piace udire questo, sebbene non sia consapevole che stia compiendo il volere di un altro, perché si deve sapere che la coscienza di un essere umano non ha niente a che fare con il divino. Ricordalo. La coscienza di un essere umano è un prodotto del Sitra Achra all'interno dell'essere umano. Quando una persona perdona un'altra, si sente bene. Sono stato capace di perdonarlo. E psicologicamente questa è una sensazione piacevole. Questo si insegna in cliniche psichiatriche, ma anche alle persone religiose. E facciamo lo stesso con i nostri figli all'asilo. Io non parlo di perdono. Parlo solo del fatto che tutto è dentro l'essere umano. Il perdono deve aver luogo dentro di te, altrimenti non puoi essere d'accordo col superiore. Ora vado avanti con lo studio di questo meccanismo. Perché devi usarlo ogni giorno solo? Allora, puoi vedere come funziona? Come sai, una persona può trovarsi nelle situazioni più ridicole. Supponiamo ci siano due fratelli, entrambi con lo stesso lavoro, con lo stesso mestiere. Uno guarda l'altro e sa tutto della sua professione, quando guadagna, eccetera, eccetera. Ma ora il fratello A vede che il fratello B ruba ai suoi clienti. La sua conclusione è che il fratello è un ladro. Dice a se stesso: mio fratello sta rubando ai miei clienti. Guida macchine che nessun'altra persona in questo lavoro si può permettere. In chiesa sul suo fratello si siede in prima fila e dà soldi e fa tutte le varie cose che si fanno in chiesa. Il fratello A non ha pace. Vede che il fratello B ha successo, ma non avendo le mani pulite. Perciò termina la relazione con il fratello e la sua famiglia. Il problema è che il fratello A non può trovare pace dentro se stesso. Quello che è al di fuori di lui non può aiutarlo. Perciò può arrivare a tale stadio di miseria perché dall'interno rode. E per lui la soluzione è di fare pace dall'esterno, per la sua coscienza. Dall'esterno vuole perdonare il fratello. Ma naturalmente nella vera spiritualità questa non è la soluzione. Questa è una storia vera. Una persona me l'ha raccontata la scorsa settimana e per questo lo tratta come esempio. Come può una persona arrivare alla vera calma spirituale? Non tramite la meditazione, questo è per bambini, perché è solo psicologico, temporaneo, ma non una correzione. Ascolta quello che dico. Non ti porti in conformità con la luce? Come funziona? Qual è il meccanismo? Nella vera spiritualità, geniale e divina, è molto semplice. L'essere terreno inventa vari tipi di sistemi, uno più complicato dell'altro, perché non riesce a vedere l'essenza. Il modo in cui una persona può correggersi e ricevere la vera calma è semplice. Esistono solo i cinque kilim, sia nel generale sia nel particolare, Keter, Chochma, Binah, Zeira, Pin e Malchut. Dentro di noi vi è il Kli Keter, ma esso non ha alcun aiuto. A essa manca lo spessore di un desiderio e per questo motivo non ha la forza della creazione. Dal punto di vista del Kli è solo il punto dello Yud, del nome Avaya. Qui non c'è alcuna forza dell'essere umano. Ogni persona ha il Kli Keter. Fai attenzione perché è semplice. È importante. Vieni in contatto con la semplicità e ti aiuterà. Io lo pratico giornalmente. I quattro kilim inferiori, Chochmah, Binah, Zeira, Pin e Malchut, sono i kilim del nome Havaya. O in altre parole, le quattro fasi dell'Aviyut. Quando parlo di Aviyut, significa che c'è già qualche distinzione nella luce e c'è della forza della creazione. Keter è la fase zero. In un certo senso è un Kli, ma allo stesso tempo non ha la forza di un desiderio. Puoi vedere il Kli come il rappresentante della luce che chiamiamo Yeshua, che significa salvezza. Il Kli Keter. Puoi vedere il Kli Keter come il rappresentante della luce che chiamiamo Yeshua, che significa salvezza. Il nome Yeshua significa salvezza. Qualunque salvezza tu voglia ricevere, devi ascendere al tuo Keter, chiaro? Come ho detto, è semplice. Quando ti sei convinto di questo, riceverai tutto. Avrai la salvezza nelle tue mani. In ogni situazione hai cinque Kilim, perciò Keter è presente in ogni situazione. Ogni Keter riceve lo splendore di un altro Kli Keter superiore. L'esistenza di Kli Keter è infinita. Per esempio, il Kli Keter di Malchut del mondo Assiya e Yesod di Malchut del mondo Assiya hanno entrambi 10 sferot. Perciò vi è Keter di Yesod di Malchut del mondo Assiya e anche questo Keter ha 10 sferot, eccetera. Tutto questo è nell'albero della vita e più in alto vai. Più in alto Keter si trova. Poi più in alto Keter si trova, più vicino ti trovi alla luce. Il Kli Keter più alto è nel nome dell'alto Keter, che è la forza di Yeshua. Ma naturalmente ogni Kli Keter ha il nome Yeshua. Non pensare a una persona quando leggi il nome Yeshua, non pensare alla persona morta sulla croce. Questo è un aspetto generale e devi conoscerlo un poco, ma il vero lavoro è dentro la persona, dentro di te. La forza di ogni Keter è la forza di Yeshua, la forza di salvezza. Quindi cosa puoi fare quando ti trovi in una situazione che non riesci a gestire? Prima devi sapere che sei connesso con i quattro Kilim inferiori, o in altre parole con la quarta, terza, seconda e prima fase. Che puoi fare? Rendi il tuo Aviyut, lo spessore del tuo desiderio più sottile e portalo al tuo Keter. Il nome di Keter è Yeshua ed è la salvezza in ogni situazione. Nell'aspetto generale, nella scala delle anime date all'essere umano, Keter è il più alto. Ed è Yeshua, Yeshua di Nazareth. È il più alto, il primo collegamento, e sopra di lui vi è Havaya, la luce stessa. Lui è il primo ricettore della luce per l'intera creazione. Il primo a ricevere la luce di Yud Hei Vav Hei entro di lui. Qualunque sia la condizione o situazione, si hanno sempre 5 Kilim. Yeshua è il Redentore generale e totale. È il Keter, o il Keter generale. Da lui viene la radiazione a ogni Keter. Qualunque sia il livello o condizione. Quando nella tua situazione particolare ascendi al tuo Keter, riceve la forza della liberazione inerente a ogni Kli Keter tramite esso, essendo quest'ultimo connesso con Yeshua. In ogni persona la liberazione è presente tramite il suo Kli Keter. Puoi capirlo? Non pensare che debba connetterti con Yeshua. Devi connetterti con il tuo Keter. Non pensare che debba connetterti con Yeshua dall'esterno. Devi connetterti con il tuo Keter. Lo stesso vale per tutti i riti religiosi, ovviamente vanno bene, ma restano al livello della religione.